15. Abbiamo ricevuto il gioco dal padrone della vita, all'inizio dei tempi. I nostri antenati lo giocarono così come Dio aveva prescritto, e in quel modo noi continuiamo a giocarlo. Johannes Tekarioga fece un ampio gesto con la mano destra. Il braccio e la spalla, nudi, erano ancora vigorosi. Il corpo, avvolto in un manto azzurro cupo bordato di conchiglie, era alto 6 piedi. I giocatori giunsero le mani all'altezza del cuore e chinarono il capo. Il vecchio riprese, seguito da tutti gli altri. «Padre nostro, che sei nei cieli!» L'anziano Sakem concluse la preghiera, sollevò il capo, esortò i guerrieri con poche parole. «Giocate duro, ma con lealtà. Non perdete la testa!» Il campo, l'unico incolto, digradava lento verso il fiume Mohawk, poco lontano dai gruppi di case che formavano il villaggio. 2 fazioni lo occupavano, 30 d'uomini per parte. Peter Johnson pensò che un dettaglio contraddiceva le affermazioni del vecchio. Il padrone della vita, all'inizio dei tempi, aveva prescritto di giocare a Bagataway nudi, dipinti dei colori di guerra. Tutti invece avevano le gambe coperte da gambali di cuoio, alcuni indossavano camicie. All'inizio dei tempi, poi, nessuno avrebbe recitato il Padre Nostro. Tekarioga socchiuse gli occhi, sussurrò alcune parole e lanciò in aria la palla, proprio in mezzo ai contendenti. Una delle mazze la colpì in pieno. Il guerriero lanciò un lungo grido, una cacofonia di richiami invase il campo da gioco. Le fazioni si mischiarono, una sola mossa vibrante, orda lanciata in corsa. La palla ricadde veloce, presto raggiunta dalla torma dei giocatori. Si scatenò una mischia selvaggia, legno contro legno, legno contro osso. Infine, l'oggetto del contendere fu snidato dal covo d'arti e sospinto a gran velocità, verso la meta. Con una corsa forsennata, Peter raggiunse il fuggiasco, lo sgambettò e picchiò con tutta la forza il capo della mazza contro il globo di pelle di cervo. Il tiro fu spettacolare, benché male indirizzato. La palla raggiunse il limite del bosco con traiettoria tesa e lunga. I giocatori si gettarono in avanti urlando e agitando le mazze, ma si accorsero di una presenza al margine del campo da gioco. Il gruppo rallentò. Le voci scemarono fino al silenzio. L'uomo si chinò sulla palla arrotolata ai suoi piedi e la rilanciò verso Tekarioga. Tuttavia la partita non riprese. I giocatori sembravano incantati. Peter guardò il vecchio Sakem. Annuiva con aria solenne. Molly attendeva a braccia conserte, in piedi sulla soglia dell'emporio. A poca distanza, donne curiose, con bambini in grembo o seduti in una fascia tracolla. Gli occhi della donna scintillarono. Lo stava aspettando. «Salute a te, Dagon Wadonti!» «Salute a te, Rona Terihonte!» «Entra, l'acqua bolle sul fuoco!» Molly ordinò alla serva di preparare il tè. Poi fece accomodare Philip su una poltrona rivestita in cuoio nero, con alti braccioli, confortevole e lussuosa. Da molto tempo le terghe e la schiena del cacciatore non poggiavano su niente di così soffice. La comodità aveva un che di sensuale, addirittura osceno. La croa si abbandonò a quell'abbraccio. Lasciò che le vertebre si aggiustassero, che gomiti caddero inerti sul legno curvo e lucido, che natiche e cosce sprofondassero senza opporre tensione. Trascorse minuti vaghi e sognanti finché il profumo del tè non lo ridestò. Si ritrovò tra le mani un piattino e una tazza fumante. «Zucchero?» chiese la serva. «Sì, grazie». Zucchero. Chissà se la lingua ne serbava al ricordo. La serva terminò il proprio compito e uscì. L'uomo e la donna bevvero i primi sorsi. La punta della lingua di Philip diede il bentornato al sapore. Per lo zucchero liquefatto l'accoglienza fu festosa. L'intera bocca eseguì un'elaborata cerimonia. Philip non poté fare a meno di sospirare. Bestia indomita il piacere. Dopo alcuni minuti di silenzio, Molly parlò. «Non sono stata io a convocarti, Rona Terihonte. È la nazione a chiamarti. Lo dicono i sogni». Philip bevve un altro sorso. La tazza scaldava le mani. «La nazione ti ha adottato e restituito alla vita», continuò Molly. «Ora ha bisogno di te. Nei sogni sei di nuovo al fianco di mio fratello». «Come posso essere di aiuto alla nazione?» domandò l'uomo dei boschi. «Il sogno non si è ancora dischiuso. Qualcosa rimane nell'ombra. Posso solo dirti questo. Devi andare a Oswego con Joseph e i guerrieri». «Io non sono più un guerriero, Molly Brandt. Non non sono più niente. Tu sei un Mohawk e i Mohawk stanno soffrendo. Molly si fermò, convocò e radunò le parole, le passò in rassegna e infine le mise in marcia, una dopo l'altra. Il nostro nome rischia di svanire. Le fauci del tempio hanno già inghiottito interi lignaggi. La nostra terra viene invasa o rubata. Un inverno di stenti cadrà su questa valle. Io rimarrò al villaggio perché donne, vecchi e bambini hanno bisogno di me. Ma il futuro della nazione dipende da quanto avverrà lontano da qui. Tu e Joseph ne siete parte. Si interruppe e sorrise. Devi fidarti dei sogni. Philip si allungò sulla poltrona e portò la tazza alle labbra, mentre un sussurro si insinuava nelle orecchie. Bentornato, Ronaterionte. Il cerchio deve essere chiuso. Il viaggio deve avere inizio.